Sonia era ancora inginocchiata sul pavimento umido con lo straccio vendicatore in mano, quando impietrita sentì di nuovo il nome abominevole e proibito, ma questa volta in una specie di gemito sordo e incantatorio. Pietro era quello sciacallo! Pietro era quella iena fetente! Pietro era Dio l'ha voluto! Sonia rialzò gli occhi. La signora Löwenthal, monumentale e ansimante, se ne stava nel vano della porta della cucina e dietro di lei Olga le faceva cenno di non spaventarsi, ma Sonia si stava già spaventando quando la signora Löwenthal, ripreso fiato, terminò la sua imprecazione. Dio l'ha voluto! È crepato! La signora Löwenthal si aspettava innumerevoli reazioni da parte delle sue vicine, che aveva sempre considerato delle giovani scervellate, ma certamente non quella inspiegabile, imperdonabile, inestinguibile ridarella che le aveva immediatamente colte nello stesso momento. Una si era piegata fino a toccare con la fronte il catino d'acqua grigiastra davanti ai suoi ginocchi, l'altra, appoggiata allo stipite della porta, aveva affondato la testa nel braccio piegato. La signora Löwenthal non vedeva più che due nuche e due schiene spasmodicamente scosse. Non ridevano forte. Singhiozzavano sottovoce, poteva anche sembrare un accesso di tosse o un grosso dispiacere. Poi ripresero a respirare, con lunghi lamenti sonori, forieri di una nuova ondata di singulti sempre più soffocati, apparentemente dolorosi. Dapprima sorpresa, poi indignata, infine oltraggiosamente ferita, la signora Löwenthal si accingeva a uscire quando Olga la trattenne farfugliando. Ora le spiegheremo, signora Löwenthal. All'idea dell'impossibile spiegazione suggerita da Olga con tanta leggerezza, Sonia, che si era rialzata, si riabbassò per afferrare il catino che versò nell'acquaio, mugolando a fatica. Ci scusi, ma sono i nervi. Si sieda nella stanza da pranzo, signora Löwenthal. Ora le faccio un po' di tè. Olga, fai sedere la signora Löwenthal. La signora Löwenthal, sedendosi pesantemente a tavola, non poté trattenersi dal fare un rapido inventario dei viveri ammucchiati nella sporta che Maurice aveva abbandonato nella fuga. Era un richiamo talmente diretto ai menù di una volta che non controllava più e di conseguenza al maledetto goulash che Olga se ne tornò in cucina per sfogare un nuovo attacco di riso che comunicò immediatamente a Sonia, la quale era riuscita appena a calmare il suo. Un'ora dopo, la signora Löwenthal era sempre lì. Beveva il suo quinto bicchiere di tè dopo aver pregato Sonia di rifar bollire un po' d'acqua, sgranocchiava la sua decima zolletta di zucchero e cominciava una nuova particolareggiata descrizione di uno degli innumerevoli pogrom che teneva in serbo nella memoria. Di Pietro ora non si parlava più da un pezzo, il caso era archiviato, era crepato quello sciacallo, perfetto, benissimo. Ma a ben riflettere, lui non era stato il peggiore. Per esempio, quando sua madre, la madre della signora Löwenthal, aveva 8 anni e lì si era snocciolata l'interminabile lista dei carnefici locali, spesso designati con i loro nomi, seguiti da soprannomi legati ai loro sadismi personali: lo sventratore, il sodomizzatore, l'accecatore, l'eviratore, l'annegatore e perfino quello di una donna, la flagellatrice. Oltre a date, nomi di villaggi e nomi di cugini, ciechi a vita o monchi della mano destra, neonati bruciati vivi e vergini squartate. Quella fine di mattinata, nella piccola stanza da pranzo piena di sole, si trasformava in una delle veglie lugubri e sanguinolente che pure Sonia e Olga avevano giurato di non fare mai a casa loro. Era impossibile far tacere ormai la signora Löwenthal. Era chiaro che l'annuncio della morte dell'atamano era stato solo l'alibi che si era creata per poter finalmente raccontare di sé a quelle ingrate ignoranti che non glielo avevano mai permesso. Sonia e Olga, con gli occhi ancora arrossati dalle lacrime versate dal gran ridere, la lasciavano parlare e tremavano all'idea di vedere entrare i bambini, soprattutto quando a un certo momento la signora Löwenthal si era messa a raccontare i particolari fisiologici di un altro stupro che prima le era sfuggito, ma ora di colpo le tornava in mente. Mai, nei loro racconti più terrificanti, né le loro madri né le loro nonne si erano abbandonate all'orgia verbale alla quale soccombeva la signora Löwenthal per raccontare le cose più ignobili. Lo faceva con parole di cui Sonia ignorava perfino il significato, e che la vecchia signora Loventhal chiariva minuziosamente, aiutandosi con dei gesti non appena si accorgeva che non l'avevano capita a dovere. Allora, all'orrore ispirato dagli stupri in sé, si aggiungeva l'orrore di constatare l'evidente giubilo che provava la signora Loventhal nell'illustrarli. E a poco, poiché il troppo è troppo, Olga e Sonia cominciarono a risentire i primi doloretti di una nuova ridarella in gestazione. Insieme, senza essersi messe d'accordo, avevano pensato intensamente e concretamente alle notti del sempre sorridente signor Loventhal. A salvarle da una seconda catastrofe fu l'ingresso felpato della signora Stern. Non rientrava nelle abitudini della signora Stern, timida e riservata, uscire dal suo primo piano a destra e invadere le vicine. Era salita perché aveva una domanda da fare, la sola domanda, pensava, che in quel momento ci si potesse fare. Lei, delle voci di strada, non aveva colto che dei frammenti attraverso la finestra aperta e voleva semplicemente sapere chi è mai colui che ha avuto il coraggio di uccidere la bestia e di offendere Dio. La signora Loventhal non lo sapeva e neanche Olga e Sonia, che insieme si resero conto a che punto la signora Loventhal le avesse distolte dalla sola preoccupazione che logicamente avrebbe dovuto essere la loro. Ah, l'insalata la mangeremo con l'olio e con l'aceto. Zazà saltava altissimo. Le altre due cantavano facendo girare la corda a tutta velocità con un rumore di sferza. Uno, due, tre, quattro. Poi riprendevano il dondolio laterale. Ah, l'insalata la mangeremo. Sono sceme, decise Maurice senza guardare Robert che guardava le bambine. Aveva una gran voglia di piangere, ma si sarebbe dovuto trovare in un angolino per piangere da solo. Non aveva nessuno a cui raccontare. Raccontare cosa poi? Che i polpacci gli bruciavano dopo quel colpo di straccio umido? Ah, era molto più complicato di così. Talmente complicato che nemmeno lui riusciva a districare le ragioni per cui era così infelice. Infelice di non capire niente e di essere totalmente incompreso, infelice e ferito per essere stato trattato come un monello disubbidiente nel momento in cui si accingeva a trasmettere un messaggio grave che finalmente gli avrebbe permesso di sentire una vera verità, anch'essa grave, che aveva sempre sospettato gli nascondessero appunto per gravi ragioni. Guardava Zazà. Odiava vederla saltellare in un momento in cui insieme avrebbero dovuto condividere la straordinaria notizia che Puè non era mai stata la vecchia Loventhal e che tutti e due erano stati mischiati in un delitto di grandi. Ma Zazà saltellava e comunque aveva dimenticato perfino il nome generico di quel segreto che tra l'altro aveva divulgato. Non guardava Robert perché aveva paura che Robert vedesse che aveva voglia di piangere e perché si affannava a cercare in che modo raccontare a lui quella lunga storia cominciata tanto tempo fa, mesi prima che arrivassero i Clément. Non lo trovava. E in modo confuso, anche questo gli faceva venire voglia di piangere. Pensava che in fin dei conti non riguardava Robert quella vecchia lunga storia, riguardava loro. Chi loro? Noi. Noi? La strada era vuota. Davanti al caffè dell'Alverniat non c'era più nessuno e comunque non era dalla bocca di un qualunque adulto che voleva sentire la verità. Poiché sua madre era solo buona a mentire e a picchiare, avrebbe aspettato suo padre e Stepan, avrebbe aspettato la sera. Se prendessimo da mangiare e andassimo al terreno, propose Robert. Va bene, ma senza le bambine, rispose Maurice che emergeva da un altro mondo. Il resto della giornata fu sorprendente per più di un motivo. Prima di tutto, senza dire niente a Zazà, che non aveva sentito la proposta del picnic, salì in casa, attraversò la stanza da pranzo senza salutare né la vecchia Loventhal né la signora Stern. Andò diretto alla dispensa, spezzò in due il grosso pezzo di groviera della settimana, prelevò due arance nella fruttiera che troneggiava sul tavolino, tornò nella stanza da pranzo per tagliarsi un bel pezzo dello sfilatino posato sulla sporta, ora afflosciata ai piedi della signora Loventhal. A Sonia, che gli chiedeva che cosa prendesse, rispose: Non mangio a casa. La signora Clemence ci ha dato il permesso. E su quella mezza verità, Uscì sbattendo molto forte la porta che durante il giorno non veniva mai chiusa. Ritrovò Robert in portineria. Ginette Clément aveva effettivamente dato il permesso. Stava avvitando un bicchiere di latta sul collo di uno strano bottiglione dipinto di rosso. Prese il pezzo di groviera dalle mani di Maurice dicendogli «Lavati le mani!» E mentre lui contemplava le barchette nuove di zecca dell'acquaio della signora Lutz, lei avvolse il formaggio in una carta piegata in quattro della latteria Blanchot che aveva tirato fuori dal cassetto della credenza, dove Maurice aveva avuto il tempo di scorgere un mucchio di altre carte di tutti i colori, pezzetti di spago e nastri accuratamente arrotolati. Un altro pacchetto della latteria Blanchot era già pronto sul tavolo accanto a due mele. Robert teneva spalancato un gran sacco di tela marrone scuro dal quale pendevano un cordoncino di cotone bianco e due cinghie di cuoio beige che strascicavano per terra. La signora Clément ci mise i due pacchetti, le due arance di Maurice, le due mele, poi tirò fuori dallo sportello della credenza un canovaccio pulito a quadri bianchi e azzurri e dalla dispensa una grossa pagnotta già iniziata. Ne tagliò due grosse fette che mise nel canovaccio con il lungo pezzo di sfilatino di Maurice e arrotolò il tutto con molta cura. «Riportatemelo», disse a Robert, ficcando il canovaccio nel sacco. Vi aggiunse la grossa bottiglia, dopo aver controllato che il bicchiere di latta che faceva da tappo non perdesse. «Non me la rompete, costa cara», disse ancora. Legò il cordoncino bianco, il che fece assumere al sacco marrone l'aria di una gonna, e abbassò una specie di cappuccio piatto, quadrato, orlato di cuoio beige, che finiva con una linguetta pure di cuoio beige, sulla quale c'erano diversi fori. La fissò come una cintura a una fibbia di ottone e disse: «Voltati, Maurice», fissandogli le due grandi cinghie alle spalle. «In cammino, banda di fannulloni, e divertitevi», intimò aprendo loro la porta dell'avventura. Passarono davanti alle bambine dicendo «Salve!». Maurice si era infilato i pollici sotto le cinghie all'altezza delle ascelle. Il sacco per tre quarti vuoto gli sballottava sul sedere, ma dal passo del portatore, fattosi pesante e cadenzato, poteva sembrare stracolmo. Zazà smise di girare la corda facendo inciampare Miriam Goldberg, alla quale toccava ora saltare veloce. Le tre bambine guardarono Maurice e Robert che prendevano la Rue Henri Chevreau e vedendo che si inoltravano nella prateria giallastra del terreno abbandonato, Zazà si portò l'indice alla tempia destra come al solito. Non decisero immediatamente in che posto bivaccare. «Bisogna vedere», disse Robert, «disferemo il sacco quando saremo sicuri». Quella terra di nessuno che conoscevano benissimo, dato che ogni giorno vi giocavano in 12 o 13, che Maurice aveva dapprima conosciuto come casa in piedi, casa disossata, casa annientata, nella luce e nel silenzio del mezzogiorno, aveva rivestito tutti gli incanti e i misteri di una radura scoperta da esploratori ai quali nessuna carta l'aveva mai indicata. Alla fine trovarono esattamente quello che cercavano. Era proprio in fondo al terreno, ai piedi del ritratto gigante del dottor Pierre, un angolo pieno di buche che di solito evitavano per non cadere quando giocavano a calcio. Due gradini di pietra, ultime vestigia di una scala che portava a cantine ormai colmate e cementate, sembrarono loro miracolosamente predisposti per conciliare il campestre con le comodità moderne. «Qui staremo bene, ci farà da tavolo, da panchina e da impiantito. Non avremo il sedere sull'erba e potremo sorvegliare», disse Robert. Maurice depose il sacco. Una volta seduti sul secondo gradino si trovarono in una piccola e comoda trincea, con il primo gradino che faceva da schienale. Erano anche a bordo di una macchina da corsa e un po' in un sottomarino. Il tovagliolo a quadri servì da tovaglia, l'avevano accuratamente spiegato sul primo gradino e ci avevano disposto sopra i due pacchetti Blanchot, un'arancia, una mela, una fetta di pagnotta, la metà del pezzo di sfilatino e la grossa bottiglia dipinta di rosso, che non stava molto bene in equilibrio sul granito consunto. Avevano fatto tutti quei gesti stando seduti sul secondo gradino, con il sacco aperto ai loro piedi, il che li aveva costretti a molti sbilanciamenti. Ora era tutto a posto, potevano sedersi a tavola, a parte il fatto che la tavola si trovava alle loro spalle. «È meglio, per via delle formiche», aveva spiegato Robert quando avevano esaminato il problema. «Con l'erba non si è mai sicuri». Con Cominciarono con le due metà di una scaloppina impanata fredda che Ginette Clément aveva messo nel pacchetto Blanchot, ognuna avvolta in due foglie di lattuga. Robert stese la sua mezza scaloppina su una fetta della pagnotta e Maurice divise il suo pezzo di sfilatino per infilarvi la sua. «Mi fa un panino a 7 piani», disse Maurice. «Il tuo ne ha solo 5». E contò la crosta, la mollica, l'insalata, la crosta di carne, la ricrosta di carne, la rinsalata, la rimollica, la ricrosta. No, 9 piani, si corresse. Non si chiama la crosta di carne, precisò Robert. È pangrattato, si fa con una bottiglia che si rotola sul pane secco. Ma la prima grande scoperta per Maurice fu il sapore di liquirizia, dell'acqua vagamente dorata che Robert gli versò nel bicchiere di latta. È cocco, con l'acqua che mia madre ha fatto scorrere per un pezzo. È per questo che è fredda. Se fosse acqua calda, fra 10 ore sarebbe ancora bollente. È per via del rivestimento interno della bottiglia. Il rivestimento della bottiglia fu l'altra magica scoperta di Maurice. Non solo per le sue virtù, ma per il suo aspetto, che assomigliava a quello delle palle che il signor Florian gli faceva appendere all'albero di Natale. Sono la stessa cosa anche i termometri, quando uno ha la febbre. È mercurio, per questo è fragile, spiegò Robert versandosi da bere con attenzione. Con il sapore di cocco non avevano nessuna voglia di groviera, ma di arancia. Robert rimise nel sacco la mela che aveva tirato fuori, il pacchetto Blanchot formaggio, la carta Blanchot scaloppine ben ripiegata in quattro, tirò fuori la seconda arancia e riannodò il cordoncino di cotone bianco. Lasciarono la tovaglia e la bottiglia. Così, quando avremo ancora fame, sarà tutto pronto, disse Robert. Sì, è meglio, convenne Maurice, il quale trovava che Robert era decisamente un organizzatore fantastico. Maurice stava per addentare la scorza della sua arancia, ma Robert gli disse: Non così, aspetta! E tirò fuori da un taschino che Maurice non aveva notato, sul fianco del sacco, un coltello a 8 lame. Come nessuno in Rue de la Mare aveva mai posseduto. Era scuro e dentro c'era incrostata una croce d'argento. Non bisogna dirlo, è quello di mio padre, disse Robert. Divisero le arance, di cui una era sanguigna, e per la prima volta guardarono veramente il dottor Pierre come non avevano mai fatto, immobili e silenziosi. Il suo ciuffo riccioluto cominciava al quinto piano del muro cieco e dal posto in cui si trovavano tutti e due avrebbero potuto toccare il bottone del suo gilet di broccato se il suddetto gilet, che cominciava all'altezza del primo piano, fosse stato ancora visibile. Non lo era più. Scomparso sotto gli strati di gesso sporco e di manifesti sovrapposti che lo imbrattavano. In compenso, il viso affettato del giovane moscardino della protezione dentaria era come nuovo a forza di starsene così vicino al cielo. Eppure, a guardare con più attenzione come stavano facendo da un pezzetto Maurice e Robert con crescente intensità, si poteva distinguere qua e là, in quei tratti apparentemente perfetti, qualche incresciosa irregolarità dovuta alle asperità del materiale sul quale erano stati dipinti. Visto così, pareva un puzzle appena finito, quando si guarda da vicino e si distinguono le venature disegnate dall'incastro dei vari pezzi. Oh, guarda! Disse bruscamente Maurice. C'è una finestra nell'occhio! Nel silenzio circostante si sentì in lontananza un leggero rumore e qualcosa si mosse nell'occhio destro del dottor Pierre. Su in alto, al quarto piano, una mano aveva aperto un lucernario verniciato di azzurro. Allora si misero a cercare le altre finestre. Ce n'erano quattro, una nera nei capelli, un'azzurra nell'occhio, una rosa sul mento e una grigia sulla spalla. Devono essere i gabinetti, disse Robert. La sola idea che si potesse fare pipì e cacca e trafiggere a piacimento l'occhio del mercante di dentifricio li sedusse. Ebbero anche un po' paura. Un tizio che non avevano mai visto nel quartiere comparve all'improvviso, fece qualche passo nello spiazzo, sbirciò verso il fondo, li scorse annidati nel loro accampamento, li contemplò per un po' immobile, poi fece una grande scappellata e se ne tornò in rue Henri Chevreau con il suo lungo cappotto svolazzante. Forse l'assassino, disse Maurice. Quale assassino? Chiese Robert. Quello del giornale. Quale giornale? Ah, non importa, disse Maurice. Toh, ecco gli altri. Ora gli facciamo vedere il gabinetto nell'occhio. Il pallone, calciato da lontano, passò vicinissimo al termos. Robert lo tolse svelto dallo scalino di pietra, piegò la tovaglia e ficcò il tutto nel sacco, mentre i Novak, i Nussbaum, i Benedetti e i gemelli Bonnet irrompevano dalla loro parte cacciando urla selvagge. Non c'è ragione di farglielo vedere, non avevano che da trovarselo da soli, disse Maurice ripensandoci. Quando si era avvicinato a Zazà, Josette e Miriam Goldberg, il satiro non aveva notato la figura di Ginette Clément dietro le tendine bianche della portineria. Lei lo teneva d'occhio da quando l'aveva visto andare su e giù sul marciapiede di fronte, chiaramente assorto nelle mutandine che apparivano e scomparivano a seconda dei saltelli delle ragazzine, cosicché quando si era bruscamente deciso ad attraversare la strada nel suo gran cappotto che cominciava a sbottonare, Ginette era già sulla porta d'ingresso. Cerca qualcuno, signore? La domanda parve talmente insolita alle bambine, che non l'avevano visto arrivare, che lo seguirono con occhi curiosi mentre si allontanava a grandi passi. Chi era, mamma? Chiese Josette. Uno sporco individuo. Casomai dovessi ripassare di qui, vieni a chiamarmi, Josette. Allora, lui non è una puepue. È un puepue, disse Zazà facendo ridere rumorosamente Miriam Goldberg. Zazà riprese: Perché sono andati a mangiare senza di noi? Perché sono grandi, disse Josette. Vuoi mangiare con Josette? Propose allora alla signora Clément. E tu, Miriam, vuoi mangiare con Josette e Zazà? Miriam Goldberg aveva consultato Zazà con lo sguardo per mendicare il permesso di rispondere. La sua nonna non vorrà mai, rispose Zazà. Beh, glielo può comunque chiedere, disse la signora Clément. E tu, Zazà, vai a chiederlo alla mamma. Vi farò il pane fritto all'uovo. La signora Löwenthal stava dicendo a Sonia Gutmann che si preparava ben tristi giorni con il figlio se permetteva che si comportasse con la volgarità di cui era stata testimone. Sonia, che già non era riuscita a trovare una giustificazione alla sua prima ridarella e neanche al principio della seconda, fu incapace di trovarne un'altra per giustificare la sua debolezza nei confronti di Maurice, che aveva così ingiustamente castigato proprio per colpa della signora Löwenthal, senza il cui goulash non sarebbe successo nulla. La signora Stern se n'era andata come era venuta e Olga Ruginski, sfinita dal profluvio verbale della signora Löwenthal, tutta rotta a forza di trattenere il riso e anche profondamente rimescolata, perché la domanda della signora Stern circa l'identità dell'assassino l'aveva fatta intensamente pensare a Stepan, guardava verso la pezza nera che non avevano ancora aperto e si diceva che di quel passo né lei né Sonia avrebbero sbrigato il lavoro della giornata. Fu allora che Zazà entrò come un bolide. Non mangio qui, siamo invitate dalla signora Clément. Mangeremo il pane vecchio e abbiamo visto uno sporco individuo. Oh, decisamente le cose vanno di bene in meglio, sospirò la signora Löwenthal. Non avete finito di vederne delle belle, mie povere figliole. E finalmente se ne andò. Praticamente alla stessa ora scelta da Stepan per urlare schifosa indicando la sua fotografia, Victoria Judith Nicole Anna Roginski in persona, ancora più bella che sulla fotografia, aveva l'orecchio piacevolmente accarezzato dai richiami che si intrecciavano allegramente. Ah, come sono belle le mie mirabelle. Venga, bella signora, può toccare, è tutta roba fresca. Le mie mele sono sode come le sue e io me ne intendo. Lei volgeva intorno al suo bel viso incoronato da tre morbide trecce trattenute da qualche forcina di tartaruga che le davano un fascino stranamente antiquato, peraltro smentito dalla bocca violentemente truccata e dall'insieme sportivo di jersey che si fermava molto al di sopra del ginocchio. L'opulenza della sua capigliatura giustificava la mancanza della cloche che normalmente avrebbe dovuto ornare la sua testa più che la mano guantata. Lei aveva un modo di tenerla in evidenza che stava a dimostrare un rispetto delle convenienze purtroppo contraddetto da una natura troppo generosa. Rispondeva a certi richiami ignorandone altri e quando decideva una compera, con la mano destra senza guanto la riponeva nella cesta di vimini di Armel, la cui cuffia e il cui cappotto nero facevano un piacevole contrasto con il suo aspetto sfolgorante. Da quando il signore e la signora Jean avevano traslocato in Rue Charles Lafitte, Nicole si era affrettata a adeguarsi agli usi in vigore nello stabile. Il numero 22 della Rue Charles Lafitte era una casa di 4 piani, troppo vecchia per possedere un ascensore, ma abbastanza antica per fregiarsi di una vasta scala coperta da un tappeto rosso scuro, fissato con bacchette di ottone, bordato di un motivo color senape intrecciato di nero, protetto a sua volta dal pianterreno al mezzanino da una tela beige. Dal cortile partiva una scala di servizio su cui davano le porte delle cucine e che finiva alle camere della servitù ricavate nella soffitta sotto il tetto di Ardesia, i cui sportellini d'aereazione erano visibili solo dal palazzo opposto, quello detto di fondo per distinguerlo da quello detto di fronte. La maggior parte degli inquilini del palazzo di fronte vi risiedevano da molto tempo. Per le scale si incontravano spesso i loro figli già grandi, i quali si spostavano sempre molto educatamente dalla parte del muro. Un giovanotto con la divisa di Saint-Cyr una mattina aveva persino portato la borsa della spesa di Nicole fino al terzo piano a sinistra, dopo averla salutata incontrandola al mezzanino. Da quando aveva preso Armel a servizio, non era più accaduto. Armel e Gildèse erano sorelle, entrambe originarie di Ploemeur nel Morbihan. Era stata la signora Le Gentil a procurare Armel a Nicole, Joël Le Gentil. Édouard, il marito, ingegnere in una società di pneumatici, la cui casa madre aveva sede a Clermont-Ferrand, abitavano al secondo piano a sinistra dello stabile di fronte. La signora Le Gentil era nata nel palazzo ed era subentrata nell'appartamento ai genitori quando questi si erano ritirati nel loro piccolo castello di Arzon, cantone di Vannes, Morbihan, Bretagne. I Roginski avevano traslocato da poco, quando un giorno lei aveva suonato alla loro porta e dopo che Nicole l'aveva fatta entrare nel salotto ancora semivuoto, ma già coperto da una moquette a quadri bianchi e neri, le aveva proposto: «Io ho una Bretone che faccio venire direttamente dalla sua fattoria. Ha una sorella. La vuole? Se dice di sì, potrebbero dividere la camera che va con il suo appartamento, il che mi eviterebbe di mettere alla porta un giovane impiegato di mio marito al quale subaffitto la mia». Ecco, non le prometto una vera cameriera, ma questa Bretone è onesta e dal momento che andiamo a prenderla al treno, prima che si faccia sedurre dai ruffiani della Gare Montparnasse e a condizione che si tenga al guinzaglio durante le feste di Neuilly, penso che lei non avrà che da rallegrarsi di averla presa. Gildèse e Armelle Beau, rispettivamente di 18 e 20 anni, erano entrate così al servizio dei Le Gentil e dei Jean e dormivano raggomitolate in un unico lettino al quinto piano del numero 22 di Rue Charles Lafitte. E questa era la ragione per cui non c'era più bisogno che qualcuno portasse le provviste di Nicole. Seguendo l'esempio di Joël, Le Gentil le faceva portare su da Armel, che saliva per le scale di servizio dopo aver detto «A fra poco, signora!» mentre Nicole prendeva la scala padronale per ritrovare Armel già arrivata al terzo piano e che le apriva la porta. A volte capitava anche che Armel portasse le due ceste delle provviste, quella di Nicole e quella di Joël, quando loro due avevano deciso di fare insieme quella che chiamavano la loro razzia nei bazar. Joël aveva preso l'espressione dal fratello che faceva il servizio militare negli Spahis a Senlis. Le due vicine erano diventate presto amiche, facilitate dal fatto che avevano dovuto compiere di conserva l'addestramento di Gildèse e di Armelle. Joël ne conosceva le regole. Fin dall'infanzia aveva una grande esperienza delle donne bretoni e conosceva perfino certe parole di bretone imparate al castello d'Arzon. Le aveva quindi inculcate a Nicole, che sapeva in quale momento farne uso. Un gentile kenavo, di cui peraltro ignorava il senso, compensava una grossa rigovernatura o un bottone da ricucire in pieno lavaggio dei vetri. Sempre Joël aveva saputo risolvere di primo acchito il problema che si era posto fin dall'arrivo delle signorine Beau, circa la messa della domenica. Dopo qualche succinta faccenda domestica, sarebbero andate alle 10 alla chiesa di Saint-Jean, in fondo all'Avenue de Neuilly, dalla parte del ponte. Era un po' lontano, ma così avrebbero fatto una passeggiata. Non so voi, ma Edouard e io siamo poco praticanti. Casomai andiamo alla chiesa di Saint-Pierre in Avenue du Roule. Loro sarebbero imbarazzate se ci incontrassero. Quanto alla distanza, vedrà che non la troveranno troppo faticosa quando gli zingari avranno invaso il viale dalla Porte Maillot a Puteaux. Nicole l'aveva trovata un po' ossessionata dai pericoli connessi all'arrivo dei girovaghi, ma poiché Joël aveva già perso tre cameriere a causa delle giostre, dello zucchero filato e di Thérésine, la donna di 100 kg, si metteva a suo posto. In compenso, aveva trovato molto delicato il modo in cui la sua vicina aveva evitato di indagare sulle sue pratiche religiose personali e, trasmettendo ad Armelle le consegne sull'ora e il luogo di culto, aveva potuto fingere di esserne l'organizzatrice. La loro intimità cresceva, ma si limitava unicamente alle loro due persone. Gli uomini non si conoscevano se non di vista. Si salutavano per le scale, ma non si erano mai parlati. Joël Le Gentil aveva rivolto la parola a Yannick una sola volta, una sera che lui era tornato presto e lei si era scusata di essere ancora in casa sua. Si era tardata solo per ammirare l'uovo di Fabergé che Nicole aveva riempito davanti a lei di sale, pepe e senape. Armelle si era vista intimare il formale divieto di toccare l'uovo del padre della signora. Yannick aveva mormorato un buonasera con la sua bella voce di basso, le aveva baciato la mano e aveva lasciato in fretta la stanza da pranzo. Le manderò Gildèse appena avrà finito di lavare i piatti, aveva detto Joël, lasciando Nicola ai suoi preparativi. Le sere in cui l'una o l'altra davano una cena, si prestavano volentieri l'una o l'altra sorella. Ancora non si erano mai invitati a cena. Sarebbe probabilmente accaduto un giorno, o meglio una sera. Nicole non era impaziente. Era felice come non lo era mai stata. Stava ottenendo tutto quello che aveva sempre desiderato e insieme si era sbarazzata di tutto quello che aveva sempre detestato, in altri termini, della memoria degli altri. Non c'era più nessuno intorno per ricordarsi della malaticcia bruttezza di quella povera polacca di sua madre, analfabeta e timorosa, che paventava sempre di trovare davanti alla scuola elementare in Rue Saint-Ferdinand quando era bambina, e la cui morte discreta le aveva dato un gran sollievo quando lei aveva 14 anni. Più nessuno per ricordare come a 6 anni si fosse rifugiata singhiozzando nella bottega del fornaio il giorno in cui la Lega dei Patrioti era venuta a spaccare a colpi di bastone la piccola vetrina del palazzo dell'Ermellino. Più nessuno per ricordare l'arrivo di Yannick come semplice operaio di suo padre. Più nessuno per ricordare gli anni in cui, poiché i documenti di Yannick non arrivavano dalla Polonia, lei era l'amica dell'operaio e lui l'amante della giovane padrona, suscitando la muta riprovazione di tutto il vicinato, tanto più scandalizzato in quanto papà Zetkin se ne rallegrava apertamente. Più nessuno per dirle: «Buongiorno Judith, come va il negozio?» E neanche più nessuno, è vero, per dirle: «Gli volevamo bene», parlando del morto. Era forse la sola cosa che le mancasse un po', perché quel morto, che era stato così bello, così forte, così allegro, le mancava terribilmente. Lei lo resuscitava a modo suo, attraverso i racconti straordinari di una vita che non era stata la sua. E nei grandi momenti di ispirazione le capitava perfino di sentire in lontananza quel fragoroso riso maschile che aveva sempre salutato le sue grosse e piccole bugie femminili. L'avrebbero davvero sorpresa parlandole di tradimento. Le vere immagini lei non le tradiva, le teneva per sé. Erano quelle che nessuno si poteva ricordare, né di conseguenza ricordare a lei, non si potevano condividere. Mai più nessuno, da nessuna parte, per ricordare una stanzetta ingombra della Rue du Roi de Sicile, dove suo padre cuce e sua madre piange, mentre lei gioca per terra con una bambola di pezza. Mai più nessuno per ricordare quando aveva varcato la soglia della bottega di frutta e verdura in Rue Pierre Demours, con la sua mano di bambina di 4 anni in quella del padre, il giorno in cui lui aveva letto «Cedesi negozio» ad alta voce per lei prima di entrare a chiedere il prezzo. E lei sola sapeva, portando in giro la sua bellezza e la sua schiavetta bretone attraverso il mercato di Neuilly, perché l'odore degli ortaggi le mettesse sul viso un sorriso così intenerito. ma anche lei sola sapeva perché non andasse mai oltre la stazione Sablon quando faceva così allegramente razzia sull'Avenue de Neuilly. Al di là di quella frontiera la minacciava un grande pericolo. L'aveva sfiorato una mattina allorché aveva sconsideratamente seguito Joël Le Gentil, che teneva assolutamente a farle vedere la merce di Charlot, il re dell'occasione. Non si trattava di occasioni di patate olandesi o di pesce del Mediterraneo, ma di scarpe, borse, cinture e biancheria fine, sempre firmate ma anche segnate da qualche impercettibile imperfezione. Troppo segnate per soggiornare in Rue de la Paix, ma straordinariamente lussuose per occupare il marciapiede dell'Avenue de Neuilly, in bella mostra su un telone steso sul selciato. Fortunatamente per Nicole, Charlot era rumoroso e vistoso anche da lontano. La sua clientela è esclusivamente femminile, lui la arringava con in testa a mo' di turbante delle mutandine da donna di leggero cotone rosa orlate di trine che gli ricadevano sugli occhi. Travolto dalle compratrici e accecato dai merletti, Charlot non aveva riconosciuto Nicole, che con spavento aveva identificato il cugino della povera Anna, sulla cui fine non si era mai fatta domande dopo averlo cacciato così brutalmente dal palazzo dell'Ermellino tanto tempo prima. Quella frontiera non l'aveva valicata mai più. A Joël, che si stupiva di trovarla tanto poco ghiotta delle occasioni offerte da Charlot, aveva risposto, aggiustandosi il braccialetto che le serpeggiava sopra il gomito, che lei odiava la merce di seconda mano. Nel cesto di Armel, quella mattina si ammucchiava solo roba di primissima scelta. La cena che Nicole dava quella stessa sera era una cena particolare e stuzzicava la sua immaginazione di padrona di casa, oltre alla sua inclinazione per l'intrigo e il romanzesco. Quella sera apriva alla sua casa gli amori clandestini di Augustin Leblanc, articoli di maglieria à Troyes, sessantenne, fino a quel momento irreperibile consorte di Marie-Jeanne, madre di Lilian Ziegler. Ordinando di nascosto a Janek la confezione di una cappa di zibellino, che per precauzione Nicole si era incaricata di deporre personalmente al numero 24 della Rue Pergolèse, per la signorina Maddy Varga, artista lirica, Augustin Leblanc aveva messo il dito nell'ingranaggio maledetto della complicità. Pazzo di felicità e straziato dai rimorsi, aveva accettato l'invito sussurrato da Nicole davanti al guardaroba da Lucas Carton alla fine della sempiterna cena mensile offerta agli Ziegler Roginski da un Augustin Leblanc improvvisamente ringiovanito nell'abbigliamento, ma stranamente assente come azionista di Femina Prestige. «Ci saremo solo noi per ricevere voi due», aveva precisato Nicole con voce appena percettibile. E da allora friggeva d'impazienza all'idea di conoscere finalmente quell'usignolo freddoloso, a proposito del quale Augustin Leblanc le aveva confidato che era timida di Saint-Étienne e che aveva solo 22 anni. Non pensava più ad altro, spingendo il portone di quercia di casa, perciò non fece assolutamente caso ai commenti che si scambiavano nell'atrio la signora Lamblin, la portinaia, e la signora Vanesse del primo piano a destra, palazzo di fronte. Le sembrò che stessero parlando di un qualche sfortunato aristocratico straniero assassinato da una canaglia. Mentre Nicole si avviava per le scale, sentì un nome. Non le diceva niente e comunque odiava la cronaca nera. Arrivata al terzo pianerottolo, sorrise a due pensieri: quello di vedere arrivare la signorina Maddy Varga inzibellinata con giugno alle porte, e quello di una giovane amante di suo padre, talmente pazza di lui che portava delle violette ai loro appuntamenti galanti, violette che papà Zetkin si portava poi in negozio e regalava a lei, Judith, in un bicchierino che posava ridendo sulla cassa.